Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E siamo arrivati alla terza parte di Eclettica. Ancora non avete sentito in questo 2007 nulla relativo a concorsi, a messa in palio di biglietti o di dischi, ma non preoccupatevi, dalla settimana prossima si ricomincia regolarmente anche con i regali all'indirizzo giulio@radiorockfm.com. Detto questo, io direi che possiamo cominciare anche con la nostra terza parte di questa settimana. Ero in maniche di camicia, come spesso mi capita quando lavoro, e stavo disegnando una saponetta attaccata con il nastro adesivo al bordo del mio tavolo da disegno. La carta stagnola dorata che la avvolgeva era sollevata accuratamente, in modo che risultasse leggibile gran parte del marchio che vi era stampato sopra. Avevo dovuto buttare via un sacco di saponette prima di ottenere quell'effetto. Si trattava di un'idea nuova. Il prodotto doveva risultare pronto per l'uso da parte di colei che lo slogan definiva «tu», più fragrante, più schiumosa, più splendida. Il mio compito era buttar giù una mezza dozzina di disegni di quella saponetta, vista da angolazioni leggermente diverse. Questo era l'incipit di Indietro nel tempo, di Jack Finney. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. just convert it no more. For she's the bubble queen, and she's willing to make every man look grim. Come to a beautiful head. For she's nice, she's cool, for she's got to take it off. E siamo così arrivati alla fine anche del secondo brano della terza parte di Eclettica, che con le sue due prime scelte di quest'oggi non ha fatto altro che confermare il proprio nome. Infatti siamo passati dall'atmosfera a base di arpa e di voce biorcheggiante di Joanna Newsom dal suo ultimo Ease album, su cui da qualche settimana a questa parte stiamo saltabeccando da una traccia all'altra, quest'oggi ci siamo ritrovati su Cosmia, alle atmosfere elettroniche che provengono da Lione, città da cui proviene un artista che si presenta con lo pseudonimo di Agoria. Babul Haircutting, il titolo del brano, in cui a dargli una mano c'era Skalad, un cantante appunto della stessa città di Lione. Ma ci sono altre tracce con cantanti ben più noti in un album di elettronica molto variegata, come Peter Murphy, ex Bauhaus, oppure Princess Superstar, che negli anni scorsi avevate trovato all'interno delle playlist di questa trasmissione, oppure, udite udite, anche Nene Cherry. E Giulio Cappardoni, che prosegue e mantiene fede al nome che ha scelto per la sua trasmissione, che vi ricordo essere disponibile anche in podcasting, trovate i dettagli su myspace.com/eclettica, con un album che uscirà per Glitterhouse nel 2007, sì, questo ne sono sicuro. Ma quando? Ah sì, nel mese di febbraio, non ritrovavo più l'appunto. Uscirà solo nel mese di febbraio questo album dal titolo chilometrico Waiting for the Dawn to Crawl Through and Take Away Your Life, che contiene due CD, uno audio e l'altro video, un film che non ho ancora avuto tempo di vedere, quindi non so dirvi nulla di questo film. Stiamo parlando dei Dakota Suite, band di Leeds, un progetto che ruota attorno a Chris Houson. Noi ci ascoltiamo la traccia numero 2, A Darkness of Moons. Tomorrow, we're gonna fall in love. that's what you Stangles the La band di Athens, Georgia finisce proprio così, interrotta in questo modo. Band di Athens, Georgia di nome Off Montreal, che negli ultimi anni di tanto in tanto compare all'interno delle playlist di Eclettica. Quest'oggi grazie ad un disco che racchiude i remix di due album più popolari probabilmente della loro storia, Satanic Panic in the Attic and The Salandic Twins. Ci sono remix di band come Broken Spindles, Grizzly Bear, Super System and the World Trade Center e molti altri. Noi ci siamo ascoltati un remix estratto da originariamente The Salandic Twins, ovvero sia Forecast Fascist Future, nella versione I Key U Mix. Siamo quasi arrivati alla chiusura della terza parte di Eclettica anche per quanto riguarda quest'oggi. Ci avviciniamo a quella chiusura con gli Oh No, Oh My, I Love You All The Time. What's your deal? And don't say the job, but they really wanna run you over. Eclettica, fine della terza parte.